Voci dal giro. Ed eccoci dunque all'appuntamento con il Giro d'Italia. Dura soltanto un giorno la maglia rosa di Adriano Malori, il primo arrivo in salita di questo giro a Rocca di Cambio, saluta la prima vittoria italiana arrivata con Paolo Tiralongo, vede i big muoversi anche in questo caso per la prima volta, anche se sul traguardo i distacchi sono minimi, con Scarponi arrivato insieme a Tiralongo che ne guadagna 3 a Schleck e 9 a Ivan Basso. Come detto, cambia padrone la maglia rosa che va al canadese Ezjedal. Oggi c'è un'altra tappa interessante. Altra tappa nervosa e delicata, soprattutto perché nelle gambe dei corridori c'è già una settimana di corsa e soprattutto perché vengono da due giorni molto faticosi. Non diciamo però che sarà una tappa che farà sfracelli, perché non sarà così. Pagheranno i corridori che non stanno bene, quelli che cominceranno ad accusare la fatica, ma quelli che sono qui per vincere il giro difficilmente si faranno del male, perché per fare la differenza ci vuole ben altro. Tappa che parte dall'Abruzzo attraverso il Molise per arrivare in Campania. Si parte da Sulmona, la città di Ovidio e dei Confetti, si punta per Isernia e quindi verso la Campania. Arriva su a Lago Laceno a 1087 metri di colle e molella, una salita che non fa tremare i polsi e dà una pendenza media del 6,1% con qualche punta del 12% e misura poco meno di 10 km. Il giro tocca oggi il punto più a sud della nostra penisola. Si riparte con Ryder Hazel, corridore canadese dell'americana Garvin, in maglia rosa. Ieri il ciclismo italiano ha salutato la prima vittoria tricolore grazie a Paolo Tiralongo, siciliano bergamasco, vive da anni ad Almenno, che ora è secondo in classifica generale a soli 15 secondi dalla maglia rosa canadese. Ieri abbiamo visto per la prima volta i big, speriamo di rivederli anche oggi. Per Augusto Staggi, Rete 24, Il Sole 24 Ore, sul Mono. Ed è tutto per questo primo appuntamento con il Giro d'Italia, di cui torneremo naturalmente a parlare anche nel nostro pomeriggio sportivo dalle 16.30 e, come detto, in diretta da Salone del Libro di Torino a più tardi. Voci dal Giro.